Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 11 Pietro, essendo malcontenti i fratelli, perché egli si era accostato ai gentili, racconta per ordine il fatto. Essendosi convertiti molti in Antiochia per la predicazione dei discepoli, è mandato dalla chiesa di Gerusalemme Barnaba, il quale converti la molta gente vi conduce anche Saulo da Tarso, e con esso è mandato a Gerusalemme per portare a fratelli delle limosine nella carestia predetta da Agabo profeta. Udirono gli apostoli, e i fratelli, che erano nella Giudea come anche i gentili ricevuto avevano la parola di Dio. E allorché Pietro fu tornato a Gerusalemme, contendevano con lui quelli, che erano della circoncisione, dicendo, «Per Dio sei tu entrato in casa di uomini non circoncisi, e hai mangiato con essi?» Ma Pietro cominciò a esporre le cose per ordine, dicendo, «Io era nella città di Gioppe, e orava, e ridi in un'estasi questa visione, scendeva un certo arnese come un gran lenzuolo, il quale pei quattro angoli veniva calato dal cielo, e arrivò sino a me. Io lo considerava guardandolo fissamente, e osservai e quadrupedi della terra, e fiere, e rettili, e uccelli dell'aria. E udii una voce, che a me diceva, via su, Pietro, uccidi, e mangia. Io risposi, no certo, o Signore, perché non è entrata mai nella mia bocca cosa comune, o immonda. Mi replicò la voce per la seconda volta dal cielo, non voler tu chiamare immondo quello, che Dio ha purificato. E questo accadde per tre volte, e di poi fu ritirata ogni cosa in cielo. Ed ecco in quel punto tre uomini sopraggiunsero alla casa dove io mi stava, mandati a me da Cesarea. E dissemi lo spirito, che andassi con loro senza difficoltà. E meco vennero anche questi sei fratelli, ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò, come avea veduto in casa sua farsegli davanti un angelo il quale gli disse, «Manda l'oppe a chiamar Simone soprannominato Pietro, il quale ti annunziera parole, per le quali sarai salvo tu, e tutta la tua casa». Ora avendo io principiato a parlare, discese lo Spirito Santo sopra di essi, come sopra di noi a principio. E ritornommi a memoria la parola del Signore come ei diceva, «Giovanni battezzò con l'acqua». Ma voi sarete battezzati nello Spirito Santo. Se adunque eguai grazia ha dato Dio a loro, che a noi, i quali abbialo, creduto nel Signor Gesù Cristo, e chi era io che potessi oppormi a Dio? Udite tali cose, si acchetarono, e glorificavano il Signore, dicendo, adunque anche alle genti ha conceduta Dio la penitenza, affinché abbiano vita, quelli pertanto, che erano stati dispersi dalla tribolazione succeduta per causa di Stefano, arrivarono sino alla Fenicia, e in Cipro, e ad Antiochia, non predicando la parola, se non a soli giudei. Ed erano tra essi alcuni ciprioti, i cirenei, i quali entrali in Antiochia, parlavano anche ai greci, evangelizzando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con essi, e gran gente avendo creduto, si convertì al Signore. E venne questa nuova alle orecchie della Chiesa, che era in Gerusalemme. E mandaron Barnaba fino ad Antiochia. Il quale arrivato che fu, avendo veduto la grazia di Dio, si rallegrò, ed esortava tutti a perseverare nel Signore con cuore risoluto, perché egli era uomo da bene, e pieno di Spirito Santo, e di fede. E s'acquistò gran moltitudine di gente al Signore. E Barnaba si partì per Tarso a cercare di Saulo, e trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero si trattennero in quella chiesa, e istruirono una gran moltitudine, talmente che in Antiochia fu dato per la prima volta a discepoli il nome di cristiani. Di che giorni vennero da Gerusalemme ad Antiochia dei profeti, e alzatosi uno di questi, Agabo di nome, faceva sapere per virtù dello Spirito, come una gran fame doveva essere per tutto il mondo, la quale anche fu sotto Claudio. E tutti i discepoli secondo la possibilità di ciascheduno determinarono di mandare soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, come pur fecero, mandandolo a signori per le mani di Barnaba, e di Saulo. Note, 11,2, contenderano con lui quelli, che erano della circoncisione. Questa maniera di parlare sembra, che dia tutto il fondamento a credere, che gli apostoli non ebbero parte a questa disputa, ma che ella nacque dalle anime più deboli, le quali penavano sommamente a distaccarsi dai pregiudizi delle tradizioni giudaiche. 11,4. Ma Pietro cominciò e ci Pietro, il quale avrebbe potuto far uso dell'autorità di capo della Chiesa, vuole piuttosto render ragione del suo operato, e giustificare la sua condotta per calmare l'agitazione dei fedeli. 11,18. La penitenza, affinché abbiano vita. Ha dato alle genti la grazia, e il frutto della penitenza, il qual frutto è il perdono dei peccati, onde trasferite dal regno delle tenebre nel regno della luce, abbiano vita, e salute in Gesù Cristo. Benefizio sì grande credevano o che dovesse essere privativamente per il solo popolo di Dio, o che adesso non potessero aver parte i gentili, se non passando per la circoncisione, e per l'osservanza della legge di Mosè. 11,19. Non predicando. Se non a soli giudei. Il Sacro Storico nota questa particolarità, affinché si sappia che Pietro fu il primo, e il solo, che fino a quel tempo avesse parlato di Vangelo a gentili. 11,20. Parlavano anche a grei. Bisogna assolutamente dire che i greci, de quali qui si parla, non erano se non veri giudei, chiamati greci, perché non altra lingua parlavano se non la greca, la quale era la lingua comune di Antiochia, e la stessa scrittura non leggevano se non nella greca versione dei LXX, impero che nel versetto precedente ha detto S. Luca, che i discepoli dispersi non predicavano Cristo se non a soli giudei. Il testo greco favorisce questa interpretazione, e quelli, che vogliono, che si intendano ovveri gentili, o proseliti gentili, non sono assistiti da alcuna buona ragione, perché quanto a proseliti per ordinario esse. Luca sa distinguerli con dar loro il titolo di religiosi, o di timorati, e i gentili sono chiaramente esclusi dalle parole del versetto precedente. 11,21. E la mano del Signore era con essi. Confermando la dottrina, che annunziavano con molti e frequenti miracoli. 11,23. Avendo veduto la grazia di Dio. La grazia diffusa sopra i nuovi fedeli, la fede, la carità e i doni dello Spirito Santo comunicati in gran copia a quella nuova chiesa. 11,26. In Antiochia fu dato a discepoli il nome di cristiani. Abbiamo veduto che per là dietro coloro che abbracciavano il Vangelo erano chiamati discepoli, credenti, fratelli. Adesso vien dato loro un nuovo nome secondo la predizione di Isaia LXV. 15. E non è da dubitarsi che questo nome fosse preso per movimento dello Spirito Santo con pubblico consiglio dalla Chiesa di Antiochia diretta allora da due apostoli, Paolo e Barnaba. 11,28. Agabo di nome, e di lui si parla ancora act. 21,10. La fame predetta da questo profeta si crede essere stata quella dell'anno quarto dell'imperio di Claudio, 44. Di Gesù Cristo. Giuseppe, Antiquit. 20, capitolo secondo, parla di questa fame, la quale afflisse particolarmente la Giudea. Per tutto il mondo. Vale a dire per tutto l'impero romano. 11,29. Ai fratelli abitanti nella Giudea. I cristiani della Giudea erano tutti poveri, avendo venduti tutti i loro beni, come ha già raccontato S. Luca. Per questo la chiesa di Antiochia, mossa dallo spirito di fraterna carità, pensò a soccorrerli quanto mai si poteva, in tempo di una calamita, della quale sentiva ella pure la sua parte. 11,30. Mandandolo a signori e questi signori secondo la significazione della parola greca sono quelli che noi chiamiamo sacerdoti, ossia preti, de quali si fa ora per la prima volta menzione. E che fino da quel tempo vi fossero de sacerdoti ordinati dagli apostoli per il servizio della Chiesa, mi pare così evidente dalle lettere di S. Paolo, e da altri monumenti dei tempi apostolici, che io per me non so vedere. Come possa sostenersi l'opinione di alcuni interpreti, i quali hanno asserito che la Chiesa cristiana non ebbe nei suoi principi altri ministri, che de vescovi e de diaconi. Veggasi, Team 3, 2. 8. Abtit. I, 5, I, Team VA 17. 19. Le limosine adunque della chiesa di Antiochia portate a Gerusalemme per le mani di Saulo e di Barnaba furono rimesse a sacerdoti della chiesa di Gerusalemme, i quali, che avessero fin d'allora parte al governo della chiesa sotto gli apostoli, e i rispettivi vescovi, apparisce da questo stesso libro, capitolo 15. 2. Capitolo 21, 18. Non sappiamo di certo se esse Giacomo il minore, vescovo di Gerusalemme, fosse anch'egli partito come gli altri apostoli, ovvero ivi risedesse. Se egli vi si trovava, non è da dubitarsi che a lui rimettessero i due apostoli le limosine dei cristiani antiocheni secondo l'antichissima regola ecclesiastica, che tutti i beni della chiesa fossero a disposizione del vescovo, e da lui passasser le dette limosine nelle mani dei sacerdoti, e dei diaconi per esser distribuite a poveri, ma il non farsi menzione alcuna in questo luogo di detto apostolo, può dar motivo di credere che egli ancora fosse occupato nella fondazione di altre chiese, e che quella di Gerusalemme fosse governata dal ceto dei suoi sacerdoti.